582. Torta coi pinoli. Questa è una torta che alcuni pasticceri vendono a ruba. Chi non è pratico di tali cose crederà che l'abbia inventata un dottore della Sorbona. Io ve la do qui imitata perfettamente. Latte mezzo litro, semolino di grana mezzana grammi 100. Zucchero grammi 65, pinoli grammi 50, burro grammi 10, uova numero 2, sale una presa, odore di vaniglia. La quantità del semolino non è di tutto rigore, ma procurate che riesca alquanto sodo. I pinoli tritateli con la lunetta alla grossezza di un mezzo granello di riso. Quando il semolino è cotto nel latte, aggiungete tutto il resto e per ultimo le uova mescolandole con sveltezza. Fate una pasta frolla con farina grammi 200, burro grammi 100, zucchero grammi 100, uova numero 1. Se questo non basta per intridere la farina, servitevi di un gocciolo di vino bianco Marsala. Prendete una teglia nella quale il dolce non venga più alto di due dita. Ungetela col burro e copritene il fondo con una sfoglia sottile di detta pasta. Versateci il composto e fategli sopra con la stessa pasta tagliata a listarelle un reticolato a mandorle. Doratelo, cuocete la torta a forno e servitela ghiaccia spolverizzata di zucchero a velo.